È martedì 20 settembre, per la verità va fatta una precisazione. Io magari leggerò alcuni titoli d'apertura dei giornali e voi ne troverete altri. Dice sei impazzito. No, succede quello che in gergo si chiama la ribattuta, perché è arrivata questa notizia nella notte su Standard & Poor's che ha declassato il rating dell'Italia e alcuni giornali hanno dunque ribattuto appunto la prima pagina con questa notizia. Io ce l'ho del Sole 24 Ore, ovviamente. Standard & Poor's taglia il rating dell'Italia. È una notizia dell'una di questa notte, cari ascoltatori. Quindi una notizia fresca fresca, purtroppo. I motivi sono: la fragilità di governo limita la capacità di risposta alla crisi, la crescita è debole. Dunque questa è la decisione di Standard & Poor's. Tutti gli altri quotidiani che io ho sono la prima edizione, dunque non hanno questa notizia in prima pagina, ma ripeto, può darsi che voi la troverete, dipende dalle edicole. Corriere della Sera: se crolla l'euro, addio Europa, allarme della Merkel. Così per Repubblica: la Grecia affonda, paura in borsa. E per La Stampa: Merkel, senza l'euro crolla anche l'Europa. Libero invece si concentra sulla vicenda escort. Le escort di Silvio lasciano nudo il PD. La procura che indaga su Penati vuole le carte di Bari sugli amici di D'Alema. Per il Fatto Quotidiano: sesso, appalti, malavita. Il Giornale: partito un altro siluro, vietato difendere Berlusconi e il processo Mills. Per l'Unità: Obama si muove, l'Europa no. Per il Manifesto: fuoco greco, e c'è una foto di Angela Merkel col suo allarme. Anche il Messaggero su questo: senza euro crolla l'Europa, l'allarme della Merkel. Ma io, cari ascoltatori, voglio partire come al solito da qualche segnalazione un po' di taglio diverso. La prima la troviamo a pagina 22 della Stampa, è la vicenda che riguarda un ex giudice, Cecilia Carreri, graziata la Jeep che in malattia faceva le regate. Una vicenda di 3 anni fa, quando i colleghi l'additarono come giudice fannullone, a lungo assente dal tribunale per una lombosciatalgia, se la spassava in barca a vela in giro per il mondo. Ora è arrivata, dopo l'indignazione sfumata, una condanna della Corte dei Conti, ma una condanna sì per colpa grave, ma a pagare 6.714 euro di risarcimento alla collettività, un mese di stipendio, insomma non una grande condanna. Una vicenda del 2005, era Jeep a Vicenza, soffriva secondo i certificati Cecilia Carreri di lombartrosi spiccata con discopatie multiple, una malattia invalidante per il lavoro aggiunta a stato depressivo, disturbi del sonno, cefalea ricorrente, tanto che non poteva stare seduta, questo secondo i certificati. È un giudice, in genere sta seduto. Questo però non le impediva di partecipare con il suo 60 piedi mer verticale alla regata dall'isola di Wight a Dunkerque in Francia, partecipando poi alla regata propedeutica per la transoceanica, 8.000 chilometri da Francia e Brasile. E si chiede Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa: e la lombalgia, la depressione, l'ansia, l'insonnia, miracolosamente curate dalle correnti della Manica e dai flutti dell'Atlantico? Ora è arrivata questa condanna della Corte dei Conti, ma ripeto, a 6.700 euro di risarcimento, praticamente una multa simbolica, scrive La Stampa, un mese di stipendio per un Jeep. E questa è la vicenda. Giudice a Vicenza, in realtà veleggiava tra Francia e Brasile mentre era in malattia. D'altronde, nelle regate incriminate, la skipper si piazzò 12ª e 9ª, ma il risultato sportivo non era la cosa più importante, no? Come dichiarava lei: vuoi mettere la formidabile esperienza di attraversare l'Atlantico e vedere le luci di Bahia? Già, vuoi mettere? Graziata la Jeep che in malattia faceva le regate. Sulla Stampa. Mentre, cari ascoltatori, forse vi siete accorti che è aumentata l'IVA, anche perché avete trovato il caro benzina, 1,70 euro ormai, e soprattutto il caro sigarette. Si concentra su questo il Secolo XIX a pagina 3. Brutte sorprese per i consumatori: sigarette, la stangata costa 20 centesimi a pacchetto, e l'effetto volano dovuto all'IVA nessuno lo sapeva, ma sta di fatto che se ne sono accorti i fumatori quando ieri probabilmente vi siete presentati dal tabaccaio e avete trovato un rincaro dai 15 ai 20 centesimi a pacchetto. Oh, io voglio segnalare anche che sul tema di cui ci occupiamo dalle 8.30, vale a dire questo delle mamme e nonne, ci sono due articoli, una pagina su Repubblica. Ora le regioni stanno pensando di varare un tetto anagrafico, mamme entro 43 anni. Questa sarebbe l'età alla quale stanno pensando le regioni da imporre per legge per fare la fecondazione assistita. Se l'età della provetta viene imposta per legge, le regioni varano il tetto anagrafico, è polemica. C'è anche un'intera pagina su Avvenire, due gemelle a 57 anni, un altro parto shock, così lo definisce il quotidiano dei cattolici, della conferenza episcopale, dei vescovi. Avvenire, a pagina 11, le bimbe sono nate a Salerno, una in terapia intensiva. Le polemiche nella comunità scientifica, c'è il rischio per la salute. C'è anche un'intervista alla ginecologa Eleonora Porcu che dice: oltre 43 anni le possibilità di avere i figli crollano, la maternità diventa una pretesa distorta. E allora di questo ci occupiamo, della voglia, del desiderio di diventare genitori, in questo caso di diventare mamme, del limite, dei limiti biologici, di quanto e come ci si possa spingere, fino a dove ci si possa spingere, fino a dove è un desiderio, fino a dove invece e dove inizia quella che per esempio Eleonora Porcu definisce una pretesa distorta di un desiderio di maternità. Ne parliamo questo alle 8.30, trovate qualcosa sui giornali, intanto ci fermiamo per 6 minuti e poi ci concentriamo sui temi quelli economico, finanziari e politici italiani. 24 mattino. E allora alle 7.34 minuti, adesso veniamo appunto alle prime pagine dei giornali, come detto in alcune edizioni, quelle che hanno fatto la ribattuta notturna per la notizia di Standard & Poor's, trovate appunto in apertura come il Sole 24 Ore questa notizia. Standard & Poor's, l'agenzia ha tagliato il rating dell'Italia, declassato l'Italia sulla capacità di ripagare il debito pubblico. Decisione arrivata questa notte all'una, motivata con la situazione politica, la fragilità della coalizione di governo che limita la capacità di risposta dello Stato nell'affrontare la crisi, con la debolezza della crescita economica. Insomma, questa è la situazione. Trovate anche un breve articolo, visto che la notizia appunto è arrivata poco prima di andare in stampa, a pagina 3, governo fragile, Standard & Poor's declassa l'Italia. In una giornata, come racconta Moria Longo, sempre a pagina 3, che era già stata una giornata densa di fragilità sulle borse europee, a non solo Milano, perché? Perché ciò che inquieta è sempre il default di Atene. Paura per il default di Atene, cadono le borse, così il titolo. A Piazza Affari meno 3,17%, cade poi a ruota anche Wall Street. Tutto nasce, racconta Moria Longo, dall'incertezza in Grecia, del fatto che nell'ultimo incontro i leader europei non abbiano trovato un modo per una soluzione tangibile al caso greco. E così ieri, quando si è sparsa la notizia che il primo ministro greco ha annullato la sua visita negli Stati Uniti, il mercato è stato preso dal panico, è tornato a convincersi che Atene finirà presto in default. E quindi ecco qui la crisi. O meglio la giornata negativa delle borse e l'intervento di Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che tra l'altro politicamente non se la passa bene, è arrivata la terza sconfitta elettorale, ovviamente locale, consecutiva. Ed ecco che Angela Merkel ha lanciato però questo allarme, ripreso a pagina 5 dal Sole: se crolla l'euro, crolla l'Europa. Superare la crisi dell'euro, ha detto la cancelliera tedesca, è una missione storica. Se l'euro crolla, anche l'Unione Europea crollerà. E subito dopo, cosa ha fatto? Angela Merkel ha fatto una telefonata, di certo immagino non serena per la situazione, con Barack Obama. E infatti Federico Rampini su Repubblica si concentra su questo: gli Stati Uniti terrorizzati dall'effetto domino, l'Europa eviti la catastrofe globale. Barack Obama si è impegnato di nuovo in prima persona, racconta Rampini su Repubblica pagina 3, Al telefono ieri con Angela Merkel, un filo diretto che diventa un asse permanente a riprova di quanto sia eccezionale l'attenzione degli Stati Uniti verso l'eurozona, che dalla Grecia può travolgere con la sua crisi attori più grossi come l'Italia e infine penalizzare l'economia globale. Siamo giunti a una svolta drammatica, fanno sapere al Fondo Monetario Internazionale a Washington. Se la Grecia non mantiene le promesse di risanare, si apre un periodo ancora più difficile per tutta l'eurozona. E, tra l'altro, Obama continua, ieri si è presentato a una conferenza stampa e tutti fanno notare che era un Obama molto duro, molto accigliato, molto nervoso, molto deciso per presentare quella che è la svolta di cui parlavamo anche ieri, vale a dire la Buffett Rule, vale a dire la tassa già definita Warren Buffett dal miliardario americano, che già il 14 agosto scorso scrisse una lettera sul New York Times raccontando questo paradosso per cui lui ricchissimo paga meno tasse della sua segretaria, proporzionalmente ovviamente, con questo paradosso, e da questo paradosso ne è nato un dibattito ed è nata questa Buffett Rule, cioè il principio ieri sancito ancora da Obama: dobbiamo tassare i ricchi e tagliare la difesa. Proposto il nuovo piano antideficit da 3.600 miliardi in 10 anni, scrive Daniela Roveda sul Sole a pagina 6, in totale ci saranno risparmi per 4.400 miliardi, questo nel piano Obama. Il massiccio aumento delle tasse per i milionari è certo una delle strategie, anche per il Corriere della Sera. Obama: tasse giuste non è lotta di classe. Più imposte ai ricchi è solo una questione di matematica. E dunque, racconta in questo caso Massimo Gaggi sul Corriere, la nuova crociata, la nuova battaglia di Obama non è una lotta di classe, ma una lotta di giustizia e di matematica. Ha detto ieri il presidente americano: le famiglie della classe media non dovrebbero pagare tasse maggiori rispetto ai milionari, una posizione chiara, ed è difficile che qualcuno sia contrario a questa posizione. Sta di fatto che, insomma, in tutto questo scenario globale, che vedete parte dalla Grecia, coinvolge tutta l'Europa, la Germania per il suo ruolo guida anche economico in Europa, l'America con la nuova strategia Obama, se ci caliamo nella realtà italiana, i guai, oltre a questo, raccontati dai giornali, sono i soliti guai. Nel giorno in cui ancora il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice: vista questa situazione globale, basta lo stallo, ci vogliono le riforme, e Confindustria non tollera più questa situazione di stallo dove non si fanno le riforme necessarie, proprio nel momento in cui però il ministro Sacconi ribadisce, ed è ripreso proprio sotto all'intervento di Emma Marcegaglia sul Sole pagina 11, arriveremo fino a fine legislatura, arriveremo fino al 2013, ma come detto i guai sono sempre quelli soliti, un misto di politica e guai giudiziari, questo raccontati dai giornali. Per esempio, ieri Berlusconi era a Milano al processo Mills, processo nel quale è imputato di avere corrotto con $600.000 il creatore delle società offshore della Fininvest in relazione a due sue deposizioni reticenti in processi al Cavaliere nel 99-2000, così leggo dall'articolo di Luigi Ferrarella a pagina 10 sul Corriere della Sera. Cosa è successo ieri? È successo che i giudici hanno tagliato i testimoni della difesa. Questo che cosa tecnicamente rende possibile? Rende possibile arrivare a una sentenza di primo grado, che potrà essere di assoluzione o di condanna per il premier Berlusconi, prima che intervenga la prescrizione. Dunque ha accorciato i tempi fissando uno scadenzario abbastanza stringente per arrivare dunque a sentenza, tanto che Berlusconi, uscendo, secondo il Corriere, secondo Marco Galluzzo, ha commentato: è un'udienza kafkiana. Uscendo dal tribunale, così Berlusconi ha commentato nelle ore appena trascorse tra pubblici ministeri, giudici e avvocati, ha detto ai suoi avvocati: tanto mi condannano, invitando i suoi avvocati a non preoccuparsi troppo. E dunque, secondo Marco Galluzzo, ora c'è questa sorta di strategia, una situazione kafkiana definita da Berlusconi, ma anche la decisione di dire che cosa succede dovesse arrivare una condanna e una sentenza dunque penale in primo grado. Nulla. Nulla, perché non c'è una norma che obblighi alle dimissioni, non esistono effetti esecutivi della sentenza, perché anche in caso di eventuale interdizione dai pubblici uffici La misura sarebbe sospesa in attesa di un giudizio che arrivi in Cassazione, e in Cassazione non arriverà mai questo processo, perché sicuramente interverrà la prescrizione, quindi al limite ci si fermerà dopo il primo grado. E dunque ecco che Berlusconi, questa secondo la strategia annunciata al Corriere della Sera, con i suoi ragiona su cosa? Su cercare di minimizzare la portata di un'eventuale sentenza sfavorevole, di un'eventuale condanna. Ed eccola qui, torna, questo su tutti i giornali, l'idea di una grande manifestazione di libertà, cioè una controffensiva. Il Cavaliere vuole scendere in piazza, dobbiamo difenderci da questi PM. Così è in retroscena di Repubblica, a pagina 3, con Francesco Bei. Dovesse arrivare questa sentenza, una mazzata che non solo castrerebbe qualsiasi possibilità di salire al Quirinale, ma renderebbe complicato immaginare una ricandidatura del Cavaliere a Palazzo Chigi anche in caso di voto anticipato del 2012. Ed ecco per questo, racconta Repubblica, che Berlusconi pensa a una controffensiva. Scendere in piazza, lo scrive anche Libero, il piano di Berlusconi: piazza, anti-PM e TV. C'è anche questa idea, vale a dire, secondo Salvatore Dama, Berlusconi si è preso 3 giorni ad Arcore per meditare la controffensiva. Tra le ipotesi c'è anche quella di anticipare il voto al 2012, dunque voto anticipato di un anno, ma l'istinto del comunicatore gli consiglierebbe, secondo Salvatore Dama, anche una controffensiva mediatica per rispondere allo stillicidio quotidiano di intercettazioni sulla Patonza e affini. E senza chiedere scusa, come ha fatto Strauss-Kahn, come consiglia, gli ha consigliato ancora ieri Giuliano Ferrara, ma solo per spiegare come stanno veramente le cose. Berlusconi che continuerebbe a ripetere ai suoi: la gente sta con me e non con i giudici che mi danno la caccia. Questo è il convincimento del capo del governo. Per la verità, sul Foglio ancora oggi c'è un editoriale in prima pagina dal titolo "Marasma a Palazzo, il Cavaliere sotto assedio". Giovedì è data una giornata decisiva, perché giovedì la Camera vota, probabilmente voto segreto, sulla richiesta di arresto per l'onorevole Milanese, l'ex collaboratore di Tremonti. E giovedì, scrive il Foglio, la Camera che vota su questo è davvero in grado di difficile, nessuno è in grado di prevedere come andrà a finire. Ci sono segnali di nervosismo nella Lega con l'ala Roberto Maroni, ma anche nel PDL. Se Milanese dovesse essere scaricato dal Parlamento, le cose potrebbero mettersi male. E se fino a pochi giorni fa l'esito del voto era considerato ininfluente dal punto di vista del Cavaliere, adesso l'esplosione irruenta del caso La Vitola Tarantini e l'accelerazione dell'assedio giudiziario hanno cambiato gli equilibri. E dunque si torna a parlare anche di elezioni anticipate al 2012. Sarà così? Chi lo sa? Intanto la vicenda Tarantini ancora oggi ha degli sviluppi sui giornali, da cui da questi sviluppi vogliamo ripartire dopo le informazioni sul traffico. E allora, alle 7:46 minuti, con la lettura dei giornali. Intanto c'è da dire che un'altra vicenda giudiziaria che coinvolge uno dei ministri, vale a dire il ministro Romano, Saverio Romano, beh, oggi sui giornali: Romano è nelle nostre mani, un boss parla sul ministro, sono rivelazioni che Giovanni Bianconi racconta a pagina 29 del pentito Loverso, che avrebbe detto: non abbiamo nessun problema coi partiti di centro, abbiamo nelle mani Saverio Romano e Totò Cuffaro. Cuffaro, l'ex governatore in Sicilia che sconta in carcere una condanna per il favoreggiamento a Cosa Nostra, era il 2003, e ecco che spunta quella che il ministro Romano dice: beh, ma queste sono diciamo nulla di nuovo, sono delle frasi che vengono fatte spuntare quando fa comodo per colpire politicamente, in questo caso, il governo. Però insomma, un'altra grana che si profila. Allora, la vicenda delle intercettazioni di Tarantini, già da ieri dal filone gossiparo, come detto, ci si era spostati sulla vicenda invece di appalti, tanto che oggi il Fatto Quotidiano titola proprio così, mettendo la parola davanti: sesso, appalti, malavita. E sia il Corriere, Finmeccanica, i 12 appalti, così il Premier aiutò Tarantini. E per Repubblica, escort, il nuovo fronte della Procura è proprio questo: indagini per turbativa d'asta. Nel mirino ci sono 12 appalti di Finmeccanica e della Protezione Civile. Ma a proposito di Finmeccanica, il Messaggero fa, diciamo, lo scoop su questo, perché intervista Guarguaglini, il presidente di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini, lo intervista Massimo Martinelli a pagina 7. Eccolo qui. Si ricorda bene quella telefonata quando mi chiamò il premier, racconta Guarguaglini. Ero a casa, alla casa dell'aviatore, a una riunione dell'aeronautica. Mi chiama Berlusconi, mi chiede se potevo far entrare una società del gruppo Intini nella Cell Proc SRL e io risposi subito di no, al telefono, di getto. Guardi, faccio una premessa: nell'83 ero con direttore generale alla Selenia, stavano per nominarmi direttore, me ne andai perché ero stufo delle pressioni politiche. Berlusconi la chiama spesso, chiede Martinelli. Io lo vedo 3 o 4 volte l'anno, quando è necessario. Non ci sentiamo al telefono, non ho il numero del suo cellulare. E insomma, è tutta un'intervista nella quale respinge tutte le accuse. Non sono abituato alle raccomandazioni. Ho 3 figlie, una fa la professoressa in una scuola, è precaria, un'altra lavora al CNR. Quando ha vinto il concorso è tornata a casa e mi ha chiesto se era, mica mi avrai raccomandato. Conosce Debbie Castaneda? Chiede Martinelli. L'ho conosciuta, ha lavorato per noi e ha procurato nuovi contatti, appalti con il suo paese, la Colombia. Insomma, su Bisignani lo conosco, ma l'ho visto 3 volte in vita mia. Che in tutto questo io sia una parte lesa, l'ho sempre pensato, come dice peraltro nell'inchiesta sulla P4, un'altra inchiesta, la procura di Napoli. Insomma, un Guarguaglini che si difende: la sera che Berlusconi chiamò dissi che non potevo aiutarlo, e in azienda mai sentito parlare di Tarantini. Questa è l'altra domanda sulla vicenda Tarantini. Dice: non lo conosco, in azienda non ho mai sentito il suo nome, ho letto che aveva un contratto di consulenza, qualcosa doveva dire per giustificare i soldi che prendeva. È 150.000 euro, chiede Martinelli. Se glieli hanno dati per aprire canali con Finmeccanica, hanno buttato i soldi. Così il presidente di Finmeccanica si difende. Tra l'altro, Il Messaggero racconta, ed è l'unico giornale che ha questa notizia, che il procuratore capo di Bari sarebbe indagato dalla procura di Lecce, favoreggiamento, Laudati indagato, il procuratore capo di Bari, quindi tutta la vicenda Tarantini, intercettazioni che coinvolge anche il premier, è sotto accusa a Lecce anche per abuso d'ufficio. Indagato dalla procura di Lecce, un'iscrizione che era nell'aria e la conseguenza della trasmissione degli atti dell'inchiesta della procura di Napoli sul presunto ricatto al premier, abuso d'ufficio e favoreggiamento personali, queste le ipotesi per le quali è stato aperto il fascicolo. Insomma, l'accusa nei confronti del procuratore capo di Bari è l'accusa di avere cercato di adottare escamotage processuali per evitare che venissero depositate le intercettazioni pubblicate nei giorni scorsi. E dunque indagato il procuratore capo di Bari, questo dalla procura di Lecce. Vabbè, c'è, come detto, di politica anche il ritorno di Marrazzo. È tornato, era stato annunciato. Marrazzo è tornato in un incontro pubblico ieri. Si è confrontato nella festa dell'Italia dei Valori con Storace, dunque due avversari politici che più avversari non si può. Si è presentato con le 2 figlie, Giulia e Diletta. Non mi sono dimesso dalla vita, così ha commentato Marrazzo. Ho sbagliato nei confronti della mia famiglia, di chi aveva fiducia in me. Ho sbagliato. E poi alla richiesta: ma ci sarà un partito che la riprenderà? Ma ha detto: ma se un partito mi chiama. Così ha detto Marrazzo. E tutti guardano già l'Italia dei Valori, perché è andato alla festa dell'Italia dei Valori. Tra l'altro, battutina veramente puntuta di Storace, che ieri durante il dibattito prima ha detto: vabbè, adesso non infieriamo più, parliamo qui di politica. Poi, siccome il dibattito vedeva due che andavano molto d'accordo a braccetto, Storace ha detto: beh, adesso però non vorrei che domani i giornali titolino bacini tra Storace e Marrazzo, con Marrazzo che dice: no, ecco, non è proprio il caso di questo titolo. Vabbè, comunque verrà preso nell'Italia dei Valori Marrazzo, chi lo sa. Intanto l'Italia dei Valori è ora sotto diciamo un attacco mediatico, perché per la candidatura di quella che è già stata definita dopo il Trota la Carpa, o il Cefalo, vale a dire il figlio di Antonio Di Pietro, candidato in Molise alle regionali. A pagina 15 del Corriere: Aiuti da papà, forse 6 anni fa la prima volta, da allora non più. Intervistato da Alessandra Rachi, si difende così il figlio di Antonio Di Pietro, che dice: non sono un cefalo e neanche una carpa. Dobbiamo chiudere qui? Benissimo, e allora andiamo a GR24.